Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo insieme al secondo appuntamento per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo oggi di lavoro e credo che sia un argomento che potrebbe portarci via un'intera giornata. Noi lo svilupperemo in pochi minuti, come sempre, ma diamo, come dire, quei dati che sono significativi a capire la realtà del problema. Sì, purtroppo quando si parla di occupazione bisogna metterci una mano sulla coscienza e un'altra sul cuore, perché veramente è un bollettino di guerra. Ed è soprattutto un bollettino di guerra che si rivaluta di anno in anno e che vede come principali vittime soprattutto le persone, i ragazzi che hanno un'età compresa tra i 25 e i 34 anni. Certo è, e questo aggiungo io, che chi ne ha di più non può certamente sentirsi in una situazione privilegiata, perché magari rispetto ai giovani hanno meno possibilità di adattarsi o di trovare qualcosa, soprattutto per chi decide anche andare all'estero. Ma certamente numeri che vale la pena spendere un paio di minuti per riflettere su quella che è la reale situazione rispetto a quelli che sono degli spot che ancora molti politici cercano di invece farci credere che la situazione sia contraria, che in ogni occasione, in ogni trasmissione non si esimono mai da dire o da fare rispetto ai numeri e alla situazione reale che il nostro paese sta attraversando. Stiamo parlando di dati che sono stati emessi dall'Istat. Sì, praticamente l'Istat ha certificato come l'occupazione giovanile sia stata praticamente falcidiata e come dal 2008 ad oggi i disoccupati in questa fascia d'età sono aumentati di oltre 2 milioni. Praticamente cosa vuol dire? Che si è passati dai 7 milioni 236 mila occupati a 5 milioni 129 mila. Questo è un dato rivolto ai giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Per cui certamente una situazione che non dà molte speranze, soprattutto anche per quello che è un meccanismo previdenziale, per chi poi desidera domani poi affacciarsi al lavoro e pensare di avere una pensione, ma chi soprattutto è in pensione, sappiamo che chi lavora dovrebbe essere mantenuto da queste classi lavorative, e certamente se i giovani oggi non trovano lavoro, il nostro paese è veramente messo molto male. Eh sì, perché intanto se non trovano lavoro non avranno una pensione abbastanza decente da poter permettergli di vivere, appunto non versano i contributi, per cui la pensione la deve ricevere, come dicevi un attimo fa, e poi è sempre più difficile, come dire, anche mettere su famiglia, in virtù del fatto che se non hai un lavoro non puoi avere un mutuo, non puoi comprarti una casa e non puoi, insomma, costruire quello che è un futuro normale di una persona. Sì, ma poi oltretutto tutto il sistema rischia di saltare, perché se oggi abbiamo un paio di due o tre persone che lavorano ed un pensionato, perdendo o avendo tutti questi disoccupati, certamente questo rapporto si riduce e il peso della previdenza può diventare veramente insostenibile per tutti, per chi ne beneficia, ma per chi dovrebbe anche beneficiarne e per chi, come hai detto tu, non ha possibilità di costruirsi un futuro. Oggi ricordiamo che per effetto dei governi precedenti, della nostra cara Fornero, addirittura la pensione è stata allungata perché è legata al regime, all'aspettativa della vita, per cui leggere questi dati certamente non aiuta a migliorare le cose, ma soprattutto continuando a migliorare i dati bisogna anche dire come gli under 35 sostanzialmente sono passati dal 51,2% a 39,2% occupati, quindi un dato veramente critico, diciamolo così, per non utilizzare un termine più importante per i nostri ascoltatori. Certamente un dato che mi auguro che anche in queste ultime manovre che il governo sta cercando di portare avanti possa in un certo modo invertire il trend, perché se andiamo avanti di questo passo veramente il futuro per questo paese non potrà che essere sempre e solo più amaro. Sì, e poi riflettevo anche tra me e me mentre tu parlavi, e se un'azienda è in difficoltà la prima cosa che fa nel taglio del personale lascia a casa magari i single, quelli che non hanno famiglia, quindi che sono normalmente i più giovani, e quindi è tutto un incastrarsi di cose per cui ne verremo fuori, mi viene da dire. Innanzitutto per quanto riguarda le scelte di riorganizzazioni che le aziende stanno in questo periodo portando avanti, a volte scopriamo anche noi all'Adico che non sono sempre dettate da un criterio, da una logica, ma purtroppo da scelleratezza da parte di classi imprenditoriali che alla fine non si fanno neanche molto scrupolo di approfittarne di un momento, diciamo tra virgolette, favorevole a loro per mettere anche in discussione quelle che sono delle condizioni lavorative che certamente sono di gran lunga peggiorate rispetto ad alcuni anni fa. Detto canto, bisogna dire che pensare a una visione ottimistica da qua nel breve periodo è veramente difficile. Certo è che la speranza è l'ultima a morire e l'augurio è che prima o poi questo trend si fermi e si possa pensare che comincia una nuova fase di ricrescita o di ricostruzione, che secondo me in questo momento siamo veramente molto lontani. Ecco, nella speranza, insomma, che le cose cambino, un pensiero oggettivo potrebbe essere quello di cercare di implementare i viaggi, la promozione turistica del nostro paese, dell'intero stivale. Insomma, il Veneto fortunatamente è una delle regioni più vive sotto questo aspetto, sappiamo delle difficoltà di tantissimi altri posti che avrebbero dei luoghi storici meravigliosi da visitare che invece fanno numeri risicati. Questo potrebbe essere una grande risorsa per la nostra nazione. Io quando penso al nostro paese, Francesco, per dare valore a quello, alle tue parole, mi rendo conto veramente dell'incapacità dei nostri amministratori proprio per questi motivi. Il nostro paese è l'unico al mondo per i numeri, ma soprattutto anche per la tipologia di turismo. Abbiamo le migliori spiagge del mondo, le migliori montagne del mondo, abbiamo la migliore cultura del mondo, abbiamo un turismo estivo, un turismo invernale, abbiamo solo l'eccellenza dell'eccellenza. A non averlo saputo amministrare, sfruttare oppure investire su queste cose, la cultura e quindi tutto quello che mi va dietro sul turismo, certamente fa denotare come i nostri politici fondamentalmente sono solo degli incapaci. E su questo direi che possiamo fermarci. Grazie al presidente dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, Carlo Garofolini. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.